Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Siamo governati dai tecnici. No, non sto parlando solo di Mario Monti e della sua squadra di ministri, ma della tecnica in generale. Se la vita che facevano i nostri nonni era molto più simile a quella che vivevano i nostri antenati nel Medioevo rispetto a quella che viviamo noi oggi, il merito, o la colpa, è tutta della tecnologia, di quello sviluppo straordinario che ci ha portato in pochissimi anni a conquistare la Luna, ad espandere le nostre menti nelle autostrade dell'informazione telematica, a sconfiggere un numero sempre maggiore di malattie. Ma la tecnica non basta, ci vuole la visione. I razzi della NASA non avrebbero condotto il compianto Neil Armstrong sulla Luna senza le calde e profetiche parole di John Fitzgerald Kennedy. E il visionario Steve Jobs, in effetti, non ha inventato praticamente nulla. Non viene ricordato come tecnico, ma come visionario. Ha messo insieme dei pezzi di tecnologia già esistenti per proporre un totalmente nuovo utilizzo dei mezzi informatici, quello sì rivoluzionario. Lo stesso principio possiamo applicarlo alla dottrina sociale della Chiesa. Questo corpus di insegnamenti è tecnico o è più visionario? Ci sono delle soluzioni facili da applicare o delle visioni che sottintendono molte altre soluzioni? Abbiamo, nella scorsa settimana, visto quali sono i principi su cui la dottrina sociale si basa. Li ricordiamo: bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. Ma c'è una visione dietro a tutto? E se c'è, qual è questa visione? Dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. L'amore nella verità, Caritas in Veritate, è una grande sfida per la Chiesa in un mondo in progressiva e pervasiva globalizzazione. Il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di fatto tra gli uomini e i popoli non corrisponda l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla quale possa emergere come risultato uno sviluppo veramente umano. La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende minimamente di intromettersi nella politica degli stati. Ha però una missione di verità da compiere in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione. Senza verità si cade in una visione empiristica e scettica della vita, incapace di elevarsi sulla prassi, perché non interessata a cogliere i valori, talora nemmeno i significati, con cui giudicarla e orientarla. La fedeltà all'uomo esige la fedeltà alla verità che, sola, è garanzia di libertà e della possibilità di uno sviluppo umano integrale. Per questo la Chiesa la ricerca, l'annunzia instancabilmente e la riconosce ovunque essa si palesi. Questa missione di verità è per la Chiesa irrinunciabile. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo annuncio. Essa è servizio alla verità che libera. Aperta alla verità, da qualsiasi sapere provenga, la dottrina sociale della Chiesa l'accoglie, compone in unità i frammenti in cui spesso la ritrova e la media nel vissuto, sempre nuovo, della società degli uomini e dei popoli. È ancora con noi, per la terza settimana, Don Marco Cagol, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per esserci ancora. Grazie di nuovo a voi. Abbiamo letto il brano, insomma, la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire, ma offre la verità dell'amore di Cristo come visione. La Caritas in Veritate di Benedetto XVI allarga questa visione. In poche parole, aggiunge qualche altro principio rispetto a quelli che abbiamo enunciato la settimana scorsa? Ma sicuramente la Caritas in Veritate ha ampliato nella dottrina sociale della Chiesa alcuni orizzonti. Anzitutto perché ha preso in esame alcuni aspetti della vita contemporanea, in particolare, lo vedremo magari anche dopo, la globalizzazione, il ruolo della tecnologia all'interno della vita sociale, che sono fatti sostanzialmente, non dico nuovi, però sicuramente oggi giunti anche a maturazione. Mi pare che proponga un approfondimento molto puntuale sulla realtà proprio della persona umana. E, diciamo così, brevemente, potremmo dire che da tutto quello che si legge nella Caritas in Veritate possiamo quasi aggiungere un principio, uno o due principi a quelli che abbiamo enunciato la settimana scorsa, e cioè il principio di gratuità. Viene molto c'è molta insistenza all'interno dell'enciclica su questo tema della gratuità, che è evidentemente la conseguenza della dimensione della carità, che è al centro un po' di questa, appunto, di questa enciclica. Questo principio di gratuità si esplicita e si articola anche, per esempio, nella forma della reciprocità. E viene articolato molto nel tema dell'economia, per esempio, all'interno di questa enciclica. È chiaro che tutto questo poi viene ricondotto a un'altra grande affermazione che l'enciclica fa qua e là in vari punti, e cioè alla dimensione della fraternità. Nelle caratteristiche della persona umana noi avevamo visto la libertà, l'uguaglianza, l'unità, l'apertura alla trascendenza. Poi avevamo visto nei principi il principio di solidarietà. Ecco, qui viene data grande esplicitazione al tema della fraternità. Se ci pensiamo, forse l'abbiamo detto, è stato detto anche nello scorso ciclo di puntate, la rivoluzione francese ce l'aveva consegnata questa parola insieme alla libertà e all'uguaglianza, poi però non si è mai tradotta in un principio, diciamo così, anche di filosofia politica. Ma tutte e tre queste parole fanno parte del patrimonio, diciamo così, evangelico, biblico. La Caritas in Veritate punta molto lo sguardo sul tema della fraternità e tenta di far diventare questo principio di fraternità proprio come un principio di quella griglia attraverso cui leggere e strutturare anche la vita sociale, farlo diventare qualcosa che poi concretamente in qualche modo struttura le relazioni all'interno di tutti gli ambiti, compreso quello economico, che sembra essere antitetico nella nostra concezione un po' iperliberista rispetto a questo principio. Proprio perché la dottrina sociale della Chiesa esplicitamente negli ultimi documenti è espressa a tutti gli uomini di buona volontà, questa fraternità non rimane solo nei fratelli figli di Dio della Chiesa Cattolica, ma è espansa a tutto il mondo. Assolutamente, l'idea è, questa enciclica è attraversata da una spinta molto universalistica, cioè già di fatto recuperando la Populorum Progressio, che aveva già allargato le riflessioni della dottrina sociale della Chiesa, che precedentemente erano concentrate soprattutto sui paesi europei, a tutto il mondo, questa enciclica vuole celebrare proprio anche la Populorum Progressio, e quindi è attraversata da questo afflato universalistico, e quindi sicuramente quando si parla di fraternità si intende l'unità della famiglia umana. Grazie Don Marco, ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Non ho nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Oh, di certo non dovrei soffrire così, così inutilmente, solamente perché hai detto sì. stupidamente con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via, con silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai, tu e mia, e chi sei più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha, sincerità, la fortuna chi ce l'ha. E qui il serpente è arrivato, seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. Arriva non va più via, col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai, tu e mia, e chi sei più non lo sai. Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo con Don Marco Cagol e stiamo parlando della Caritas in Veritate e della visione che offre in più alla dottrina sociale della Chiesa. Rimaniamo proprio su questa enciclica. Su cosa punta lo sguardo questo documento di Benedetto XVI circa la persona? Abbiamo visto due settimane fa essere il centro di tutti gli sforzi della dottrina sociale della Chiesa. Sì, direi che la Caritas in Veritate, si diceva molto bene prima, offre una visione sulla persona che integra o che completa, che approfondisce ancora di più tutto quello che già il pensiero sociale cristiano aveva detto, e in particolare fa un affondo su due aspetti, cioè evidenzia quali sono i dinamismi più profondi della coscienza della persona, per farli assurgere, per farli diventare proprio dei principi che poi effettivamente possono trasformare la vita sociale, e sono proprio quelli che noi troviamo nel titolo, la carità e la verità. A me pare proprio che nell'introduzione all'enciclica si voglia dire come queste due espressioni, queste due realtà, queste due dimensioni sono due dimensioni originarie della persona. L'essere umano è fatto per amare, la carità è una forza che spinge gli uomini, ecco, ad impegnarsi per la giustizia, per la pace. Tutti gli uomini avvertono l'interiore impulso ad amare in modo autentico, si dice. Quindi l'amore, la carità, è una forza originaria dell'uomo, che per i credenti evidentemente viene da Dio e quindi ha le caratteristiche dell'amore di Dio, che quindi è fedele, eterno, è dono, no? Però è un'esperienza di fatto comune a tutti, e quindi non è un'esperienza che va racchiusa solo però nelle relazioni intime, familiari, amicali, ma è un'esperienza, una forza, potremmo dire così, che può veramente essere il principio di tutte le relazioni, anche quelle economiche, sociali e politiche. Però è un dato proprio della coscienza, della vita, dell'esistenza dell'uomo. Poi c'è l'altro aspetto, che è la verità, cioè l'uomo è fatto per conoscere la verità, c'è una verità, esiste una verità, e all'uomo è dato di conoscerla, non di possederla, di conoscerla. E questa è anche una questione molto molto importante. Tutti noi siamo portati a voler conoscere la verità, Pensate, quando qualcuno ci racconta una menzogna, noi abbiamo la nostalgia almeno della non menzogna, c'è qualcosa che tocca le nostre corde profonde. Quindi il conoscere la verità è un dato fondamentale della vita umana, e anche questa è una, diciamo così, una forza, un'aspirazione, come dire, un'energia, non mi piace tanto questa espressione, però che deve in qualche modo poi diventare un principio anche di regolazione o comunque di strutturazione. Cioè è importante conoscere la verità, porsi le domande dal punto di vista della ricerca della verità per poter anche costruire la vita sociale. Ecco, l'interazione di queste due realtà è fondamentale, infatti caritas in veritate. Sono due dimensioni originarie della persona e su queste si può costruire la vita sociale. Ecco, queste dimensioni, l'amore e la carità e il bisogno, la ricerca della verità, sono comune agli uomini di ogni epoca e di ogni lato, di ogni latitudine, però ci sono anche i segni dei tempi e la dottrina sociale della Chiesa ha a che fare anche con essi. Globalizzazione e tecnologia. Rispetto a questi fenomeni, quali caratteristiche dell'uomo vengono considerate rispetto a queste? Certo, la Caritas in Veritate è strutturata in capitoli, no? Ci sono 4 capitoli, 2 di questi sono dedicati proprio alla globalizzazione e alla tecnologia. È interessante perché appunto i 4 capitoli tematici, che sono il 3º, il 4º, il 5º e il 6º, hanno tutti un piccolo proemio che, se messi insieme, formano un piccolo trattatello sulla persona umana, ecco, e quindi è molto interessante anche fare questa operazione. Ecco, in questi 2 capitoli vengono premesse, nel trattare queste due questioni, vengono premesse 2 considerazioni proprio sull'uomo. Ecco, la prima considerazione riguardo alla globalizzazione è il fatto che l'uomo, ecco, non è fatto per essere da solo, un'affermazione molto banale. Ecco, la più profonda povertà che l'uomo può sperimentare è la solitudine. Quindi le relazioni, l'essere insieme è un qualcosa di nativo e di originario per la persona umana. E dunque questo, che vale per i singoli uomini, dice la Caritas in Veritate, vale anche per i popoli. Quindi la globalizzazione, che è questa interazione tra persone in uno scenario globale, va regolata, va vissuta, va interpretata, va orientata secondo questa stessa logica, non l'individualismo, l'abbiamo visto la volta scorsa, e neanche un ingranaggio tale per cui la singola persona o il singolo popolo viene sacrificato perché funzionale agli obiettivi, diciamo così, magari parziali, appunto, dei meccanismi della globalizzazione. Quindi direi questo, la relazione e la solitudine. L'altro, la tecnologia, anche questo un principio, un'idea molto semplice, molto cara anche alla teologia, al pensiero cristiano, e cioè il fatto che della responsabilità. Nella tecnologia l'uomo non è che si aliena da se stesso, ma deve mettere in campo totalmente la propria responsabilità, perché ogni scelta, ogni realtà che l'uomo produce, ecco, deve rispondere a quelli che sono proprio l'essenza stessa della persona. Un lampo. Perché questa enciclica è così importante nello scenario della dottrina sociale della Chiesa degli ultimi anni? Ma io direi perché propone veramente lancia la sfida anche a tutti i saperi, soprattutto penso all'economia e alla tecnologia, la sfida di una nuova sintesi umanistica. Cioè questi fenomeni hanno rischiato e stanno rischiando proprio di mutare la stessa interpretazione che l'uomo ha di se stesso. Pensate a tutte le teorie dell'homo economicus o dell'homo technologicus, ecco, questa enciclica vuole dire: no, l'uomo è sempre lo stesso, è quello che noi abbiamo conosciuto, che è quello che noi conosciamo quando guardiamo a noi stessi. Questi fenomeni così pervasivi non devono mutare la coscienza che noi abbiamo di noi stessi, perché questa ci viene da altrove, non ci viene né dai meccanismi economici né dalle tecnologie che noi creiamo e noi inventiamo. La nostra percezione di noi stessi viene dal di dentro di noi. Per noi credenti evidentemente viene dalla relazione che abbiamo con Dio, di essere creature fatte immagine e somiglianza sua e amati da Lui, e quindi anche capaci di amarci tra di noi. E quindi c'è una sfida: come far interagire questa coscienza che l'uomo ha di sé rispetto a questi fenomeni così pervasivi che tendono proprio a mutare la percezione che l'uomo ha di se stesso. Pensate cosa vuol dire oggi la tecnologia anche per un adolescente, per un giovane, no? Che vive sempre a stretto contatto con la tecnologia. Questo può veramente anche cambiare la percezione. Quindi è una sfida culturale, umanistica, concettuale, scientifica anche. Ringraziamo Don Marco Cagol per essere stato con noi oggi e nelle puntate delle scorse settimane. Dalla settimana prossima inizieremo ad applicare questi insegnamenti e questi ragionamenti con incontri, interviste e testimonianze con i protagonisti del nostro Nord-Est nei campi dell'economia, della società e della politica. Ci diamo appuntamento proprio per la settimana prossima. Vi ricordo che potete riascoltare le nostre puntate sul sito di Blu Radio Veneto. Per suggerimenti, informazioni e comunicazioni potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, un grazie per essere stati con noi. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.